Quando sono partita mi è venuto un po' di crisi, mi dispiacevo. Mi si sollevavano le gambe, braccia, convulsioni. Da 9 mesi che avevo quella malattia. Ieri sono stata, mi hanno visto l'assistente sociale Vittione, che mi ha chiesto cosa voglio fare. Comunque mi hanno chiesto anche se vorrei dormire qui, ma io ho detto che preferisco a casa. Perché preferivi a casa dormire? Sì, perché mi è comodo.